Rientrati dentro 451 frammenti sonori con Bass Cliff, un progetto nuovo uscito da alcune settimane, tra l'altro uno dei dischi insomma del 2012, una certa rilevanza questo Reeling Skullway, tra l'altro tratto dalla Punch Drunk che ha già fatto uscire Ecoplex, quindi insomma faccenda piuttosto buona quella di Punch Drunk, che sta rielaborando in maniera piuttosto originale quello che è il suono della dance, e una sorta di traslazione. Se nella prima parte di 451 ci siamo occupati, come dire, della decostruzione di fatto compiuta da una certa avanguardia, Negative Land, Mark Stewart e Alan Licht, con la seconda parte invece entriamo dentro quel suono deep, profondo, che è comunque dentro soprattutto quello che è la disco underground, quella insomma che sentiremo anche riecheggiare attraverso anche proprio delle citazioni dirette, quella di Larry Levan, quella di Walter Gibbons, di Nicky Siano, di Kevorkian, personaggi insomma che Arthur Russell hanno assolutamente inventato una astrazione legata alla disco, non per questo perdendo in fisicità, in corporeità, musiche che comunque si fondano appunto sulla danza. Qua la cosa particolare sia di Buzz Cliff che di Quedo e questo traslare, questo rendere quasi manipolare e rendere quasi astratto una sostanza che invece è decisamente materiale, fin troppo, una musica addirittura sessuale, quella della disco, non a caso collegata molto col mondo del porno degli anni 70. E ad esempio proprio ancora in sottofondo abbiamo Quedo, diventa quasi una sorta di viatico anche piuttosto malinconico quello che traccia Quedo in questo Servant, che non è soltanto legato tra l'altro alla disco ma anche al mondo dell'elettronica degli anni 80 e 70, con appunto queste filiazioni quasi cinematografiche. Lo si vede anche nella copertina dell'album, perché è abbastanza significativa, il riferimento proprio agli anni 70 e agli anni 80. Se avete modo di poter, ma sicuramente avrete modo, perché adesso ormai quasi soltanto i bradipi non vanno su internet, il disco è Severant, uscito nel 2011, e Quedo appunto lo capirete, questo discorso di mix anche di estetica nei 70-80 la si vede anche dalla copertina. Sì, in effetti i riferimenti sono ad esempio a Vangelis, non è un caso che viene proprio citato, anzi ve lo mettiamo magari anche in sottofondo, Blade Runner proprio di Vangelis. E con Buzz Cliff si va su quel territorio appunto straordinario di Ecoplex, cioè quel rimandare a quegli anni 80, ad esempio proprio nel pezzo che aveva aperto 451 in questa seconda parte, c'è quasi un'affiliazione con l'Italo Disco, ma anche qua quello che era un po' diciamo un po' rufiano della Italo Disco, musica che ha anche tanti spunti futuristici, però insomma sempre un po' con quel fare criticabile, anche probabilmente italiano, un po' rufiano, un po' commerciale, no? In questo caso, però veramente forse la spinta futuristica era anche più forte, soprattutto in certe progettualità tipo Robotnik o faccende comunque legate a Klein MBO, insomma poi sull'Italo ogni tanto ci torniamo sopra. E qua dall'Italo Buzz Cliff riesce a prendere quel tono comunque da elegia che aveva l'Italo, e quando si intristiva, quando aveva quel valore aggiunto dato appunto da una verità comunque che era quella di certi anni 80, quelli comunque che finiva una stagione storica e come dire si ritornava anche un po' così forse dentro casa, veramente un po' a ripensare e un po' anche a fare voli e scapici. In questo caso sia Buzz Cliff che Quedo hanno fortemente questo valore scapico e scapista che appunto rende la loro musica veramente molto molto interessanti. Invece tutt'altro che scapico. Tutt'altro che, appunto, stiamo entrando in un altro universo che è comunque un universo estremamente interessante e divertente, veramente la parola non è casuale, divertente, perché il personaggio è un personaggio che sulla scena musicale già dagli anni 90, pur essendo molto molto giovane, in realtà ha iniziato a produrre i suoi materiali musicali dal 1996 circa, all'età di 19 anni, e ancora adesso sulla cresta dell'onda, prodotto da grandi etichette, in primo luogo la Mowox, che ha fatto uscire ben due dischi e anche degli EP a suo nome, e poi ha continuato le sue produzioni con molte altre etichette, tra cui anche un'etichetta a cui lui stesso ha contribuito a far nascere, la Jefferson Ave. Ed è proprio un disco che si chiama proprio così, quasi dedicato all'etichetta appena costituita, Jefferson Ave, del 2001, che rappresenta forse l'universo anche più divertente e decostruito di questo personaggio, che come nome principale fa Greg Adams, e che il suo nome d'arte è DJ Assault. Assault, nato nel 1977, è detroitiano e si sente pieno la sua provenienza legata alla techno di Detroit, ma anche a tutta la scena house che comunque ha curato e cura tuttora. Produzione vastissima, oltre a dischi moltissimi EP, veramente innumerevoli EP dal 1995, ed è appunto in questo disco che DJ Assault lavora su una vera e propria decostruzione soprattutto dell'immaginario legato alla dimensione dell'R&B, della parte più commerciale di una dance un po' deviata nel senso brutto della parola, non nel senso che utilizziamo spesso noi, deviata sui binari commerciali, sì, sui binari dettati dalla norma più che dalla devianza, appunto dentro un percorso completamente commerciale di vendita di stereotipi, di meccanismi molto molto connessi ovviamente all'aspetto della carnalità, ma nell'ottica della vendita, dunque della mercificazione, della costruzione di un immaginario legato soprattutto a tutto un ambito connesso al mondo black, alla cultura nera, che ovviamente è portata in una dimensione di profitto, di guadagno, di soldi, di sesso, viene rappresentata costantemente, veniamo da anni bombardati da questa iconografia connessa a un certo tipo di genere. Ecco, lui la demolisce attraverso appunto una sorta di ironia, piuttosto una parodia quasi feroce, un'ironia assolutamente irridente e anche piuttosto devastante e piuttosto anche cruda, attraverso appunto una decostruzione di questi brani che vengono rielaborati. Già Solti è passato nel passato, scusate il gioco di parole, su 451 Frammenti Sonori in un altro paio di trasmissione con un disco splendido che poi è uscito appunto per la Mowox, Bella Isla Tech, dove invece lavora molto di più sulla decostruzione della disco anche degli anni 70, rimesticando in una maniera che poi ritroveremo in parte in un altro personaggio che è considerato un po' il figlioccio di DJ Assault. Ma in questo disco invece lavora più sull'attualità, sugli anni zero, sul suono black più commerciale e più appunto destinato al mercato mainstream, lavorando secondo me in maniera sempre estremamente geniale. Ce l'andiamo a sentire dunque dal disco uscito nel 2001, Jefferson Ave. This is for the people that live by the phone, that die by the phone, that realize that without the phone, you really ain't got shit. So I bring to you, without further ado, the accelerated boom, boom, boom.

sucks, man. Le proprie voglie, anche molte volte represse, nascoste, sotterrate da un sistema che vuole tutt'altro, e in questo noi ci riconosciamo molto, soprattutto la linea libertaria. Andiamocela a sentire. Dunque, Complete Spira è proprio il brano che dà il nome all'EP. Tra l'altro, se c'è una citazione diretta da Larry Levan, quindi insomma chiudiamo la spirale proprio tirando fuori una delle menti infuocate della disco più allucinata, insomma. Qua chiaramente questa sera abbiamo tirato fuori un'idea di disco, eh? Eh sì. Complete Spiral.

Beh, la sublimazione massima con DJ Springle e con la sua spirale completa, quella che appunto insieme a Mark Feld, tra l'altro ex SND, quindi insomma, ricordiamo la Glitch Music. Tutto ritorna. Sempre. Tutto ritorna e cambia però. Cambia tornando. Tornando indietro. Tornando cambia? Sì, però andando avanti non cambia. Aspetta che ci penso, no, non l'ho capito. Eh beh, sono elucubrazioni sotto campagna elettorale. Per quello? Beh, certo, è tutto collegato a quello, no? Quindi devo pensarci bene a casa. Allora, mi hai dato magari un messaggio che insomma è difficile da capire. È un incrocio tra futuro anteriore e passato prossimo. Futuro anteriore e passato prossimo. Questa secondo me è una buona sintesi per le lezioni che stiamo per accingersi. Cosa fai? Ti pipi la cocaina? Cosa ma non, magari guarda, non stare neanche qua per la cocaina. Piuttosto sto un po' rimbecillito, però effettivamente è interessante. Ti pipi l'aspirina mi pipo le aspirine, no. Il freddo che ho preso. Piuttosto è interessante questa sintesi tra passato prossimo e futuro anteriore. Interiore. Non sì, anteriore, anche interiore. Bravo. Grazie. Sei contento? Adesso ci sono le crocette. Facciamo una trasmissione sulle crocette. Facciamo una trasmissione sulle crocette. Croci e le crocette. Tira a tirare. Cosa tiri? L'aspirina sul sedile? Sei spalmato? No, cioè, mi sta prudendo il naso. Devo dirti la verità. Però non posso entrare nei dettagli perché potrebbero essere anche un po' ambigui. Sconci. Anche. Ah, proprio vabbè, zozzeria. Zozzeria grosse. Niente di drogato. No, sei troppo bravo. Sono troppo bravo. Un bravo ragazzo. Bravi ragazzo poco, bravo soprattutto. Bravi ragazzi poco, bravo sì. Bravo. Sì, vabbè. Ragazzo poco in quel senso. Insomma, non sono più un ragazzo. Non sei di primo pelo, insomma. No, di terzo pelo. Di terzo pelo. di pelo. Un po' ispido. Pelo ispido. Allora vuoi sei contento? Io voglio salutare tutti, voglio salutare le crocette e il futuro di tante cose, perché le crocette sono sempre importanti. Torniamo ogni due anni a fare le crocette. Poi c'è qualcuno che vuole anche fare le crocette pane, durante l'anno, anche due o tre volte all'anno, per decidere chi sarà da crocettare. Dunque la crocetta pre-crocetta. Sempre crocette, una vita di crocette. È una vita di crocette. C'è anche via Crocette, mi pare una zona Bologna. Sì. Crocette. Vabbè, no? Però non essere adesso così cittadino, magari ci ascoltano da New York. Da Parigi. Da Parigi. Da Oslo, da Canicattia. Così, quindi la crocette, sì. Oltre che il pane, sono pane e crocette. Pane e crocette. E poi cosa c'è anche di crocette? Crocette, non so, tre nastri. Una crocetta. No, vabbè. Non ci viene in mente. Ci penseremo questa settimana. Poi faremo una trasmissione. Che cos'è la crocetta? La musica delle crocette. Della crocetta. La crocetta potrebbe essere anche una piccola croce. Che non possono neanche, voglio dire, contestarci durante la campagna elettorale in radio, perché non parliamo di niente. Parliamo delle crocette. Parliamo proprio del. Le crocette. Dell'alter ego. Della crocetta di noi delle elezioni, l'alter ego di tutto, senza il concetto. La carta e la croce. La carta e la croce. Ma forse come verbo. Ma bisogna, la carta bisogna croce, mettere no? solo le croci, o si potrebbe tipo anche fare un cerchio. Beh, poi dice un'altra cosa, però. Ma se cerchi, secondo me te la rendono non valida. Cioè, proprio la crocetta bisogna. No, crocetta. Un taglio. No. Comunque io stavo pensando a una cosa. Non lo puoi fare neanche il taglio, ma crocetta come piccola croce, questo è un po' la riflessione finale. Sì, piccola croce della nostra esistenza. Bravo. Così volevo finire. Spettacolare. Ciao. Buonanotte.